L'appuntamento per sabato è alle 15 davanti alla sede di Era Viale Berti Pisciat. Ci vuoi raccontare a che punto siamo? Queste manifestazioni in giro per l'Italia chiedono una moratoria. Di cosa? Chiedono una moratoria delle privatizzazioni prima che si pronunci il corpo elettorale, quindi che i cittadini possano andare a votare per il referendum e quindi esprimersi sulla possibilità di abrogare il decreto Ronchi che obbliga alle privatizzazioni e anche tutta la legislazione precedente che dava la possibilità di privatizzare le aziende di gestione dei servizi locali e dell'acqua in particolare. A che punto sono le firme, per il, referendum? Ricordo che noi abbiamo raccolto su tutto il territorio nazionale 1.400.000 firme, che è il risultato più alto di firme raccolte per un'iniziativa referendaria nella storia repubblicana del nostro paese. Queste firme sono al vaglio della Corte di Cassazione, che informalmente ci ha detto che ovviamente non ci saranno problemi sul numero, anche perché sono quasi 3 volte tanto la quantità che era necessaria per indire il referendum. Comunque aspettiamo la sentenza della Corte di Cassazione e poi fra dicembre e il mese di gennaio, quindi entro il 10 di febbraio, dovrà esserci la sentenza della Corte Costituzionale che dovrà dire se i 3 quesiti sono quesiti legittimi e quindi si potrà votare sui referendum. Il problema è che potrebbero accavallarsi delle elezioni politiche. Sì, diciamo che dopo la sentenza della Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica dovrebbe promulgare l'indicazione di indire il referendum e il governo dovrebbe decidere qual è la data entro il 15 di giugno. Ovviamente tutti vedono qual è la situazione del quadro politico, quindi potrebbe essere che il governo cada e che ci siano anche elezioni anticipate, nel qual caso, dal punto di vista della legge, i referendum slitterebbero alla primavera del 2012. Quindi, da questo punto di vista, la duplice richiesta che difende il diritto dei cittadini italiani a votare sul referendum dice appunto moratoria, perché non si vuole che si facciano le privatizzazioni prima che i cittadini si siano pronunciati. Seconda questione, vogliamo che questo avvenga comunque, anche se ci dovessero essere elezioni anticipate, nell'autunno del 2011, quindi entro il 2011. Io sono andata a scorrere il testo della legge Ronchi. Ci sono già delle scadenze previste entro il dicembre del 2010, giusto? E che tipo di scadenze sono? Sì, diciamo che sul nostro territorio le scadenze reali sono quelle del 2011, del 31-12-2011 e su questo poi c'è una vicenda specifica che noi abbiamo cominciato ad affrontare e che riguarda le aziende a totale gestione pubblica del servizio idrico e dei rifiuti. Pronto? Siamo qua che ti Ecco, ascoltiamo, sì, sì. perfetto, ho sentito dei disturbi. E quindi per esempio Sorgea e Geovest, rispettivamente gestione del servizio idrico per 5 comuni a cavallo fra il bolognese e il modenese, e Geovest, che tratta i rifiuti per 11 comuni. Queste sono aziende a totale capitale pubblico che gestiscono sostanzialmente il cosiddetto in-house, il servizio per conto di questi comuni. Ecco, queste aziende alla lettera del decreto Ronchi dovrebbero mettere, diciamo così, a gara o affidare il 40% delle proprie aziende a privati. Detto questo, in realtà noi stiamo facendo una battaglia perché questi comuni, ieri sera abbiamo incontrato il sindaco di Ravarino, che è un comune dell'area modenese, chiedendogli intanto di avviare una discussione di massa, sospendere tutti questi meccanismi per permettere appunto che si arrivi al referendum sostanzialmente a bocce ferme. Perché Ecco. altrimenti si potrebbero far partire dei percorsi che poi si bloccherebbero se passasse il referendum. Certamente, se passasse il referendum e si votasse, addirittura in alcuni casi, se le amministrazioni pubbliche avessero già anticipato certi provvedimenti, questo implicherebbe un ritorno all'indietro che, come tutti sappiamo, visto che insomma, sono in ballo anche cifre economiche consistenti rappresenterebbero, diciamo così, una problematica in più da affrontare rispetto all'esigenza di ripubblicizzare il servizio. Quindi noi pensiamo che bisogna evitare di arrivare, diciamo così, a quel punto. E invece per ora ricordaci che cosa accadrà? Per ora le scadenze sono scadenze diverse, secondo me non a caso evidentemente, diciamo così, la pressione delle multi utility per quello che rappresentano economicamente sono riusciti probabilmente a strappare delle tempistiche diverse, che sono entro il 2012 e poi entro il 2015 la discesa fino al 30% di proprietà pubblica, quindi da 60 attuale che era dovrebbe scendere entro il 2015 al 30% di proprietà pubblica. Noi ovviamente anche in questo caso chiediamo che i comuni si astengano dall'accelerare processi di privatizzazione, quindi di cessione delle proprie azioni, insomma, quindi anche questo fa parte della moratoria che noi chiediamo fino a che appunto il corpo elettorale non si sarà pronunciato.